dove vai? Comprati tutto ciò che vuoi. Quello che vuoi. Sguardo spento hai. Dimmi ancora come stai. Che sguardo spento hai. Dimmi ancora come stai. Parlami semplice che ho perso le immagini belle che ho te. Parlami semplice che ho perso le immagini belle che avevo di te. Che avevo di te. Scolorano i miei occhi e il sorriso dei tuoi sguardi che lava via. Prenditi pure gli occhi, ma l'anima no, non portarla via. Tornerai da me, non mi sorridere. O penserò che stanotte tornerai da me.